me in chiesa. Vogliamo fare un altro applauso sentito con tutto il cuore al nostro Dio. Lui è meritevole di gloria, di onore, di lode, perché è il nostro Salvatore, il nostro Signore, il Messia, il Cristo che ci è dato. E grazie gruppo Lode, grazie per questo tempo che ci avete accompagnati nell'adorare il nostro Signore. È meraviglioso ed è bello essere qui, vi potete accomodare con noi. Bello essere qui in questo angolo del palco allestito a soggiorno, sembra di stare a casa, ed è molto molto bello che con me ci sia mia moglie da 5 mesi, 2 giorni fa. Come ci si sente dopo 5 mesi con me? Come la vedete voi? Grazie. Meglio delle aspettative, addirittura. All'ultimo, non roviniamo tutto. Avete notato, siamo qui in questo salottino, c'è addirittura il camino, cioè l'hanno credo fatto per te. Se ti concentri ti riscaldi. E poi abbiamo tutto qui, abbiamo dolci di Natale, abbiamo giochi da tavolo, perché è Natale. Forse non tutti voi sapete che questo periodo dell'anno è particolarmente caro a mia moglie, cioè a me piace il Natale, però lei ama il Natale. Perché ti piace così tanto? Ma è un tempo per me che lavoro a scuola, nel quale posso staccare un po' dal lavoro e quindi sto rilassata. Lo so che per molti genitori forse non è così, però a me rilassa. Poi è un tempo in famiglia dove vedo anche i miei zii di Lecce, insomma è bello perché possiamo stare a tavola e sul divano a tavola, insomma è un tempo proprio... in cui non si fa niente. Quanti passano il Natale così? Posso vedere per alzata di mano, divano, tavola, divano, scusate, tavola. Scusate, forse non dovrei. Si alzano la mano. Non dovrei andarne fiera, ma il mio Natale è così, è così. E poi la tombola, vabbè, insomma, quello che si fa. Che nessuno mai vuole giocare, c'è sempre qualcuno che dice, ma dobbiamo giocare a tombola. E giochiamo. Qui abbiamo diversi giochi, abbiamo tombola, abbiamo le carte di uno, abbiamo risico, abbiamo anche Monopoli, che abbiamo deciso di buttarlo nel fuoco in questo Natale. Non è vero. Anche se è falso, perché il Monopoli, quanto sono d'accordo con me, rovinano tanti Natali, è vero? Sì, non quindi, è così. Vabbè. Come chiesa possiamo fare un primissimo appello, facciamo una decisione, una scelta davanti a Dio di non giocare a Monopoli quest'anno? No, lo faremo in questo Natale. Lo faremo in questo Natale, vogliamo farci male. Che dobbiamo stare a fare? Per chi ci segue da casa, puoi scriverci che cosa ti piace del Natale? Ora, se noi guardiamo lì, non è perché siamo strabici, come diceva Enza, è perché lì abbiamo la telecamera, ne abbiamo una lì e una lì, e vogliamo dare particolare attenzione anche a chi ci segue da casa. Sì. Benvenuti, vogliamo fare un applauso a coloro che, pur essendo rimasti a casa, ci stanno seguendo, stanno vivendo con noi questo incontro. Abbiamo dei dolci qua. Sì. Il Natale è anche bello per i dolci. Questi distraggono, soprattutto le cartellate. Ragazzi, di che parliamo? Ma oggi sono due già. Sì, questi li abbiamo fatti con tanto amore io e mia madre. Più mia madre che io, però io ho aiutato un pochino, dai. Grazie per queste cartellate. Grazie Rossella. Mamma, grazie per queste, sono buonissime e credo che mi state invidiando tutti. C'è quel gusto del vincotto. Stiamo parlando del Natale, amo. La croccantezza della cartellata. Un attimo. Per chi ci segue da Milano o da altre parti d'Italia, secondo me loro non sanno che cos'è la bellezza vera del Natale senza le cartellate. Vabbè, avranno qualche altro dolce, dai. E poi abbiamo il pandoro che non mangio, se no non riesco più a parlare. Però per alzata di mano, quanti preferiscono il pandoro al panettone? Pandoro tutta la vita. Pandoro come ho detto. Tutta la vita. Pandoro. La nostra chiesa, anche nel primo incontro, si è espressa. Poveri canditi. Il pandoro vince sul panettone. Per forza. Anche noi due amiamo pandoro e cartellate. Chi è che vivrebbe di pandoro e cartellate con noi, con me e Giorgia? tutti invitati a casa. Un appello, non facciamolo solo a Natale, tutto l'anno. Tutto l'anno, tutto l'anno. Vediamo se dalla chat qualcuno ci risponde, ci dice che cosa gli piace del Natale. Se volete pure in sala potete urlare che cosa vi piace del Natale. Qualcuno dice volume, vi prego. Cioè alzate il volume, vuole dire, non che gli piace il volume. Il volume del Natale. Soprattutto se giocate contro di me, dice Saverio. Ah, per il Monopoli, perché per chi conosce Saverio, lui è un appassionato di Monopoli, ma vi invito proprio col cuore a non giocare con lui a Monopoli, perché è molto competitivo e si può rovinare il Natale. Ora, questo Natale per noi è particolarmente speciale, vero? Perché è il nostro primo Natale da sposati. Da sposati insieme, in quarantena, chiusi, in lockdown. Col Monopoli. Col Monopoli. E questa è un po' la nota dolente, no? Che comunque è un Natale molto diverso dagli altri anni, è un Natale con restrizioni. Qualche giorno fa abbiamo avuto altre indicazioni su come vivere queste festività. È un Natale diverso, è sicuramente un anno diverso, tutto è stato ridimensionato e forse anche ci sentiamo meno felici di questo Natale. E noi, proprio in virtù del fatto che c'è questo rischio, no? Che possiamo vivere con meno felicità questo Natale, sì, abbiamo deciso di parlare di cosa? Della gioia. Della gioia. Sì, sicuramente è stato un anno che forse non è stato facile, e quindi arrivare anche a Natale non significa necessariamente vivere la gioia, perché magari è stato un anno di sfide economiche o familiari, cambiamenti, malattia, insomma ci sono state tante variabili in questo anno, Covid, no Covid, comunque a prescindere. E quindi il Natale potrebbe non essere vissuto proprio con questa leggerezza, ma forse con una forma di pesantezza. Ed è qui che il Signore ci ha dato questa parola, gioia. Gioia, perché vedete, la forza di noi credenti è proprio questa, poter vivere in un ordine di cose ribaltato, in un ordine di cose che è stabilito da Dio, e Lui ci chiama a vivere gioia in ogni circostanza, in ogni anno e per ogni occasione, perché la nostra gioia non è circostanziale, e la nostra gioia, la gioia di cui vogliamo parlare, non è la gioia delle cartellate e del pandoro, senza nulla togliere alla gioia dei dolci, del cibo, dei giochi da tavolo, ma la gioia più profonda che mai ci potrà essere tolta è la gioia che Dio stesso ci dà. Quindi vogliamo cominciare con una lettura che è proprio l'annuncio della nascita di Gesù. Sì, come anche dicevamo prima nella presentazione con Enza, proprio Luca 2 parla dell'annuncio. E Luca 2, 10 dice: l'angelo disse loro, ai pastori: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E quello che, preparando il messaggio, insomma, ci ha colpito è stato che Luca non cita la gioia solo in questa parte dell'annuncio della nascita, ma alla fine di Luca, proprio nel Luca 24, in diversi versi è scritto, dopo la risurrezione, che i discepoli hanno vissuto un'incredulità e una grande gioia, e loro lodavano e benedicevano Dio nel tempio perché erano colmi da questa gioia. E quindi la gioia non è legata solo all'evento della nascita, della resurrezione in sé, che già quello esprime, ci fa vivere tanta gioia, ma è legato alla persona di Gesù e a quello che lui rappresenta per me, per te e per l'umanità tutta. Gesù è gioia. Gesù è gioia. Ed è bellissimo vedere come c'è gioia nell'annuncio della sua nascita, che ricordiamo è l'incarnazione di Dio, è Dio che si fa uomo e viene a stare con noi, Dio con noi. Ma poi c'è gioia anche nella sua vita. Gesù porta gioia ovunque, libera, guarisce, salva. C'è gioia nella sua morte, magari non per chi gli era vicino all'epoca, ma per noi la morte di Cristo è sinonimo di gioia, perché in virtù della sua morte che noi siamo stati perdonati e siamo lavati dei nostri peccati. E poi ovviamente, come hai letto nell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, c'è gioia nella resurrezione. La gioia completa è proprio nel fatto che Cristo ha vinto la morte, Cristo ha vinto il diavolo, Cristo ha vinto l'oppressione. E noi oggi, se abbiamo da celebrare, abbiamo da celebrare il Natale, ricordare quello che è avvenuto, non possiamo fare a meno di gioire. Chiesa, gioiamo, in questo tempo noi abbiamo una ragione stabile per la quale gioire. E la gioia è qualcosa che non contraddistingue solo la vita di Gesù, ma il suo regno. Abbiamo letto insieme il Vangelo di Marco, abbiamo fatto questa lettura comunitaria giorno dopo giorno per scoprire che Gesù è venuto per rivelarsi quale autorità è re, re dei re. La sua autorità l'ha manifestata attraverso miracoli, segni, prodigi, e lui è venuto per stabilire un regno che è un regno di gioia. Questo è quello che c'è scritto nella parola, è straordinario. Nella parola c'è scritto che il regno di Dio è un luogo di perenne gioia. Vi ricordate quando Gesù presenta quella parabola dei talenti e poi dice a colui che ha fatto fruttare quello che gli era stato affidato: entra nella gioia del Padre. Così viene descritto il paradiso, così viene descritta la vita eterna, la gioia del Padre. Noi entreremo in una gioia completa, perenne e totale quando andremo dal Padre. Ma oggi, perché questo ci interessa, la nostra gioia non dipende da quello che possiamo avere o non avere, da un Natale, da un festeggiamento, da una condizione, uno status economico. È triste quello che si è vissuto quest'anno e non lo vogliamo sminuire, però al tempo stesso, se abbiamo sentito da parte del Signore di parlare oggi di gioia, è proprio perché questa è la forza della Chiesa: rimanere stabile nella gioia che mai nessuno ci potrà togliere. Amen. Questa è la nostra forza. Noi abbiamo una gioia, e la gioia che noi abbiamo è stabile come la roccia sulla quale fondiamo la nostra vita. Vi ricordate che Gesù parla di fondare la casa sulla roccia e non sulla sabbia? E in altri termini, quello che sta dicendo è che la tua vita sarà stabile nella misura della stabilità delle tue fondamenta. Se tu vuoi una gioia stabile, devi avere delle fondamenta stabili nella gioia. Se la tua gioia è circostanziale, se la tua gioia è basata su cose terrene, se la tua gioia è basata sui beni, sul materialismo, tutto questo a un certo punto crollerà. E in questo anno si è vissuta tanta rabbia, tanta amarezza, tanto disorientamento dalla società che ci circonda. Perché? Perché si è smosso questo fondamento, che è sabbia, è sabbia. Noi abbiamo sotto i nostri piedi invece la roccia. Un'altra immagine che la Bibbia ci offre è quella dell'albero, e dice che l'uomo è come un albero, e in base a dove le sue radici sono affondate, dove si affondano le sue radici, in base a questo il suo fogliame è verde e porta frutto. E lo vogliamo leggere insieme in Geremia? Sì. Geremia 17, verso 7 e 8. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. E leggendo questo verso, l'immagine che avevamo era di foglie verdi. Sì, tu l'hai avuto proprio in preghiera. Sì, in preghiera. Le disegnate anche delle foglie. Sì, e quindi non c'entrava con Luca. Che cosa dobbiamo dire? E invece il Signore poi ha riportato proprio a questo verso, nel senso che, come dicevi, no? Dove sono le nostre radici? Che frutto stiamo portando? Perché... se il frutto è la tristezza, se c'è il lamento, c'è la paura, c'è l'ansia, le nostre radici non sono piantate nel terreno giusto. E quindi se vogliamo delle foglie verdi, allora le nostre radici devono essere piantate vicino ad acqua viva. E quindi la domanda che ti pongo e che mi pongo è: la senti la calura in questo periodo di siccità? Che cosa stai vivendo? La senti tutta questa siccità o hai un ristoro nella parola? Qual è il tuo frutto? Stai vivendo preoccupazioni? Sì, è proprio bello questo verso, no? Lo vuoi rileggere? Nell'anno di siccità non avrò alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Nell'anno della siccità. Non è forte. Parla di un anno, di uno spazio temporale specifico. E dice nell'anno della siccità. Noi conosciamo che cos'è la siccità. È quel periodo nel quale viene a mancare in modo particolare l'acqua. E questo è un anno di siccità, ce lo possiamo dire. Senza forse, senza ma. Questo è un anno di siccità, questo è un anno difficile, questo è stato un anno difficile e anche il periodo che ci sta davanti non si prospetta da subito migliore. È un tempo di siccità, è un tempo di siccità. La promessa di Dio però è questa, che pur essendo noi in un tempo di siccità, possiamo avere la certezza, perché quella che ci viene proposta dalla parola di Dio non è una possibilità, ma la certezza, l'avete letto, no? Parla con sicurezza, non è probabilmente avrà delle foglie verdi, probabilmente continuerà a portare frutto, no, certamente quell'albero le cui radici sono presso i fiumi, presso l'acqua, quell'albero anche nell'anno di siccità porterà frutto e avrà foglie verdi. Questa è la nostra promessa. Questa è la promessa per me, per te, per chi ci sta seguendo da casa. Questo è quello che vogliamo incoraggiarti a vivere questo Natale. Ad affondare le tue radici nel giusto terreno, affinché tu non possa vivere preoccupazione. Nell'anno della siccità non vivrà preoccupazioni, c'è scritto. Non avrà alcuna preoccupazione. E se noi, figli di Dio, abbiamo questa testimonianza e viviamo una quotidianità che si distingue proprio perché non la viviamo come tutti gli altri, quale gloriosa testimonianza abbiamo da offrire al mondo che ci circonda? Quanto le persone vedranno le loro foglie, il loro non portare frutto in determinate stagioni e il nostro essere dei sempreverdi e sempre fruttuosi. E cosa dice la parola di Dio? Dice che questo albero si contraddistingue perché confida nell'Eterno e ha fiducia nell'Eterno. Confida nell'Eterno e ha fiducia nell'Eterno. Noi dobbiamo ricordarci che la parola di Dio è una lettera, se vogliamo, d'amore da parte di un padre che vuole il meglio per noi. Lui è il nostro creatore, lui è il nostro padre migliore e lui vuole il meglio per noi. Lui vuole che noi abbiamo una gioia non come il mondo offre, gioie effimere, ma una gioia stabile, costante, solida, presente in ogni stagione. E da buon padre che cosa fa? Dà delle indicazioni. E quella che abbiamo appena letto è un'indicazione, la parabola della casa che è fondata sulla roccia, un'altra indicazione che dà Gesù. E anche i pastori in realtà nell'annuncio degli angeli hanno avuto un'indicazione che hanno preso, no? e quindi hanno fatto una scelta. E questa è una cosa particolare che emerge nell'annuncio della nascita di Gesù. I pastori fanno una scelta, vero? Sì, è quello che succede, come abbiamo letto in Luca, che dopo che è stato dato l'annuncio ai pastori, i pastori non si sono fermati nel gioire all'annuncio e quindi erano felici ed è finita lì. Ma quello che i pastori hanno fatto è stato muoversi, scegliere di andare ad incontrare Gesù, il Salvatore. E quindi questo loro atteggiamento e comportamento deve essere per noi uno stimolo a non rimanere nell'ascolto soltanto, ma anche nell'andare ad incontrare anche Gesù. E loro hanno avuto fiducia quando gli è stato annunciato e nella fiducia sono andati verso questo Gesù, attraversando il paese. Cioè, non è che parliamo di un portone all'altro, ma mo vado a vedere qui vicino, tanto è. No, loro si sono spostati consapevolmente, hanno scelto di andare ad incontrare Gesù. Hanno fatto un tragitto, hanno preso prima una scelta e poi sì, hanno fatto un tragitto, hanno camminato in una direzione per poi conoscere il Salvatore in persona. Sì. E credo che il modo migliore che abbiamo per festeggiare questo Natale e per assicurarci di avere delle vite stabili è proprio scegliere, vivere un tempo di scelta, un tempo di scelta che può portare ciascuno di noi a confidare nell'Eterno e avere fiducia in Lui, anche in modo particolare se si avverte la siccità, no? Prima ti domandavo, non era preparato, non l'abbiamo preparato ieri o nei giorni passati, però ti chiedevo, no, hai vissuto siccità nella tua vita? Qual è stata l'ancora di salvezza nella siccità che tu hai vissuto? Credo che la siccità sia nella prassi di ogni credente. Se non la vivi, allora c'è qualcosa che non va. Però ci sono stati tanti momenti, penso di parlare per molti, di siccità. Di ferite, di delusioni profonde, e in queste ferite e delusioni si prova anche una tristezza, una forma di sfiducia verso l'altro, incomprensione, dubbi, domande, ma in tutto questo l'unica mia consolazione alla fine è sempre stato Gesù, perché sai, nella psicologia viene anche parlata di resilienza. Tutti abbiamo forza, soprattutto alcune persone proprio hanno una forza d'animo fortissima, e questo ci può fare andare avanti, però è un trascinarsi, perché la vera resilienza, la vera gioia, la vera pace, la vera serenità la può dare soltanto la persona di Gesù. E quando mi trovavo in queste situazioni molto tristi, sofferenti, dove veramente mi cadeva un po' il mondo addosso, cose che non aspettavo, ricordo con una mia amica che pregavamo e dicevamo: che dobbiamo fare? L'unica soluzione è questa, pregare, non abbiamo un piano B o altre situazioni a cui affidarci. Che da un lato sembrava la cosa più triste da fare, ma in realtà era la cosa più giusta da fare, perché poi Gesù è colui che ha trasformato il lutto in danza, colui che pazientemente mi ha raccolto e ha riattaccato tutto. Non è che finirà la siccità, ci saranno altri anni di siccità, però è solo in Lui che noi possiamo veramente avere una consapevolezza che qualsiasi sia la siccità, Lui ci tirerà fuori, creerà la via nel deserto. Sì, e questa è una forma di siccità, l'abbandono, no? Il sentirti solo, il non sentirti compreso. E quando ci sono anni difficili e stagioni difficili nella nostra vita, molto spesso questa è una delle difficoltà maggiori, non sentire il calore di qualcuno che ti possa comprendere, la vicinanza di qualcuno che possa ascoltarti pienamente e sostenerti in quello che stai attraversando. Però il bello del Natale, il bello della nascita di Gesù, è che in questa manifestazione, proprio che Dio si fa uomo e viene ad abitare con noi, Lui dà a noi la possibilità, attraverso questa nascita, attraverso il suo lasciare il trono celeste e venire in mezzo a noi, ci dà una manifestazione concreta, pratica, evidente di quanto Lui non ci abbandona mai, di quanto Lui è sempre vicino, di quanto Lui è con noi. E questo è Natale. Questo è il vero Natale che oggi possiamo far nostro. Dio è con te. Sai che la promessa più ripetuta nella Bibbia è proprio questa: io non ti lascerò e io non ti abbandonerò. Questo dice Dio e lo dice a te che mi stai seguendo da casa, lo dice a noi qui in sala. Lui è con noi, Lui è vicino, Lui c'è. E Lui ci sostiene, Lui ci capisce, Lui ci comprende come nessun altro potrà mai comprenderci. E afferrare questa verità, afferrare questa promessa, afferrare questa benedizione è tutto per l'uomo. Non c'è uomo sano su questa terra che non stia cercando la felicità. Tutti sono alla ricerca della felicità. Ed è per questo che si fanno le scelte più assurde, rischiose, per afferrare delle felicità. Una felicità nei beni materiali, una felicità in un posto di lavoro, una felicità in una relazione piuttosto che in un'altra, una felicità in una condizione, in un luogo, in un oggetto, in tante cose, in un figlio, in un rapporto. Tutti cercano la felicità. Ma solo una felicità e una gioia è sicura e stabile per sempre, ed è Cristo Gesù. Lui è la nostra gioia che mai verrà meno. Dobbiamo scegliere. Dio è venuto su questa terra, ma è venuto per farci comprendere l'invito che stava urlando dal cielo all'umanità: venite, venite, avvicinatevi, c'è salvezza, c'è redenzione, c'è ancora una possibilità di tornare a casa. E Lui ci vuole portare a fare questa scelta oggi. Alla luce di quello che abbiamo letto, alla luce di quello che abbiamo detto, non c'è modo migliore di concludere questo incontro se non prendendo una scelta. E io, noi, non possiamo prendere questa scelta per te. È una scelta tua, individuale. E forse la tua scelta oggi è dire: io voglio rinunciare al mio orgoglio, perché ci vuole umiltà nel seguire Gesù. O alla mia arroganza e al mio pregiudizio di sapere meglio di Dio come ottenere gioia nella mia vita. Ci vuole umiltà. Devi morire a te stesso, devi morire alle tue convinzioni, ti devi arrendere, ti devi spogliare e devi andare da Lui e dire: accetto i tuoi consigli, accetto quello che tu hai da dirmi, accetto le tue promesse e accetto anche i tuoi comandamenti. Forse questa è la tua scelta, forse per la prima volta devi dire a Gesù: ti chiedo perdono per i miei peccati, lavami di ogni mia colpa e accoglimi alla presenza del Padre. Gesù è venuto per rendere possibile ciò che era impossibile, per ripristinare un rapporto che si era rotto definitivamente tra l'uomo e Dio. E l'unica strada era il sacrificio di Gesù, e Lui l'ha fatto, Lui è morto, Lui ha pagato il prezzo per dare a te e a me l'opportunità di entrare di nuovo in una relazione con il Padre. Quindi oggi hai questa opportunità, oggi hai l'opportunità di scegliere di ricevere il perdono dei tuoi peccati e vivere un rapporto con Gesù. Però forse per i molti credenti che ci stanno ascoltando ci sono altre scelte. Mi viene in mente la scelta delle priorità, di non mettere al primo posto qualcosa che dovrebbe rimanere al secondo o al terzo posto. Dio deve avere l'esclusiva del primato nella nostra vita. Solo così agisce e ci permette di avere foglie sempre verdi e di portare sempre frutto. Non puoi avere altre cose al primo posto, non puoi scambiare l'ordine. E forse come credenti dice: io credo in Gesù, io confido in Lui, ma forse la tua fiducia in Dio non è totale, c'è qualcosa che metti davanti a questo. E la Bibbia è molto categorica nel dire che questa è idolatria. Ogni cosa che viene messa prima di Dio è una forma di idolatria. Forse devi lasciare il tuo idolo e confidare veramente mettendo Dio al primo posto nella tua vita. Forse una scelta che devi fare è vivere la disciplina di cui abbiamo parlato nelle ultime domeniche. Perché vedete, dà senso e dà valore al Natale, alla nascita di Gesù, il nostro essere disciplinati nel vivere la relazione con il Padre, perché Lui ha fatto tutto ciò che era necessario fare per permettere questa relazione. Però adesso tocca a noi anche avere la fame e l'intenzione quotidiana di cercarlo e vivere in relazione con Lui in preghiera, come diceva Giorgia. La preghiera è il mezzo che ci dà l'opportunità di vivere intima relazione con Dio, la lettura, la meditazione, l'ascolto della parola. Se rinunciamo a queste cose, rinunciamo a quei mezzi che ci danno l'opportunità di vivere la vera relazione con Dio. Non so qual è la scelta che oggi potremmo fare, non so qual è la scelta che lo Spirito Santo ti sta invitando a fare ora, ma noi ti invitiamo a farla. Siamo alla presenza di Dio e possiamo scegliere, dobbiamo scegliere. E la nostra scelta determinerà il colore delle nostre foglie e determinerà il frutto che porteremo. Vogliamo chiudere i nostri occhi e concentrarci su di Lui. E io voglio invitare in modo particolare coloro che non hanno mai chiesto a Gesù di perdonare i propri peccati e non hanno mai scelto di seguirlo e vivere una vita consacrata a Lui. Non si parla di religiosità, non si parla di fare determinate cose nello specifico, se non aprire il proprio cuore e dire: io voglio vivere una relazione con il mio Padre celeste, con il Creatore, e voglio invitare Gesù nella mia vita. Se questa è la scelta che tu vuoi fare in questo momento, noi tutti insieme vogliamo pregare con te e per te. Io voglio guidarti in una preghiera, voglio invitare tutti noi a ripeterla insieme. E se tu la stai facendo per la prima volta, questa preghiera, falla col cuore, falla in modo tale che siano le tue stesse parole a esprimere quello che stai per ripetere con me. Ripeti con me questa preghiera, facciamola insieme. Signore Gesù, ti chiedo di perdonarmi. Perdona ogni mio peccato e perdona ogni mia colpa. Ti invito nel mio cuore e nella mia vita e voglio seguirti. Amen. Amen. Vogliamo rimanere ancora in preghiera. Forse la tua scelta è quella di riordinare le tue priorità, di confidare, di avere fiducia in Dio in questo anno di siccità. Forse hai sentito proprio l'abbraccio di Dio in questo momento, mentre parlavamo, quanto Lui ti stesse dicendo: sono con te, ti vedo, ti amo, figlio mio, figlia mia. La tua scelta adesso è proprio quella di arrenderti e dire: sì, io voglio te più di ogni altra cosa. Forse devi lasciare il compromesso, forse devi dichiarare guerra a un peccato, forse devi fare sul serio con Dio. E questo è un momento di scelta e voglio pregare per te. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare insieme. Padre, alla tua presenza noi ti ringraziamo, prima di tutto ti ringraziamo, gloria a te per quello che hai fatto, è meraviglioso, grazie di essere venuto. Grazie che ci hai mostrato con così grande evidenza quanto tu ci ami, mandando il tuo stesso figlio su questa terra. Grazie perché sei con noi e noi vogliamo far nostra questa promessa. Rifiutiamo ogni bugia del diavolo che ci cerca di allontanare da questa verità, dalla tua promessa che tu sei con noi. Padre, tu hai scelto di essere con noi e noi ora decidiamo di essere con te, di vivere una santa alleanza. Voglio pregare per ogni persona che in questo incontro, in questo momento, decide di dire basta al peccato, basta al compromesso, basta all'idolatria, basta a priorità sbagliate. Io voglio Cristo al primo posto, io voglio le mie radici ben affondate nell'acqua viva, io voglio portare frutto in ogni anno, in ogni stagione. Non voglio più lamentarmi, non voglio più disperarmi, non voglio più la tristezza, non voglio più conformarmi a questo mondo. Voglio godere della promessa che il Padre mi dà. Lui è con me e io voglio essere con Lui. Prego questo per ogni membro di questa chiesa e per ogni persona che sta ascoltando questo messaggio, che a partire da questo momento tu possa, Padre, prendere le redini in mano della nostra vita, che noi possiamo essere guidati da te, che noi possiamo fare la tua volontà quando è comoda e quando è scomoda, che tu possa essere la nostra roccia, che tu possa mettere un giusto fondamento sulla nostra gioia, che le nostre gioie non possano essere quelle di questo mondo, ma possano essere quelle eterne, quelle fondate sulla tua venuta, sulla tua vita, sulla tua morte e sulla tua resurrezione, vittoria sul peccato. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Amen. Vogliamo continuare a pregare e vogliamo continuare ad adorare il Signore. Forza, Chiesa, continuiamo a pregare, a stare alla sua presenza.